A bordo campo di Dario Ricci. Sabato 22 agosto 1998, campionati europei di Budapest maratona. Maratona che si tinge d'azzurro con un podio tutto italiano. Oro a Stefano Baldini, 2 ore 12 e un secondo. Secondo posto per Danilo Goffi, 2, 12 e 11. Terzo posto per Vincenzo Modica, 2, 12 e 53. E al settimo posto di quella incredibile maratona per l'Italia si piazza un altro azzurro, Giovanni Ruggero, che proprio in quell'occasione conquista il miglior risultato in carriera. E allora oggi noi riviviamo quella giornata, ma anche alla luce di quello che sarà il prossimo grande appuntamento in calendario per quanto riguarda la maratona, cioè la maratona di Milano, che si disputerà proprio domenica 7 aprile, e lo facciamo con i protagonisti di quella giornata indimenticabile di Budapest, che si ritroveranno proprio in gara a Milano con un obiettivo del tutto diverso stavolta: non il podio europeo, ma vincere una gara per alcuni aspetti anche più importante. E allora saluto intanto qui al mio fianco in studio a bordo campo Danilo Goffi, ben trovato. Grazie, un saluto a tutti voi. Beh, Danilo, giornata indimenticabile quella di Budapest con un argento europeo alle spalle di Stefano Baldini. Insomma, credo che sia già... Dove lo conservi quella medaglia? Hai fatto una cornice? Ce l'hai nel cassetto? No, ce l'ho in una bacheca insieme alle mie altre medaglie, che poi in quella giornata vincemmo anche la Coppa Europa Squadre. Quindi a coronare di una gara fantastica, di un tris italiano che non era mai successo, a parte i 10.000 metri di Stoccarda con Cova, May, Antibo, senza che magari May si arrabbi. No, poi ci chiama in diretta, anzi quindi... Stefano fallo pure, perché oggi si parla proprio di fondo e mezzo fondo, quindi è anche casa tua. E quindi credo che sia stata una... col settimo posto poi di Giovanni Ruggero sia stata veramente la storia della maratona italiana. Poi dopo poi Baldini, non dimentichiamo che poi diventò nel 2004 campione olimpico, quindi credo che abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale, quindi a perlomeno nella storia abbiamo scritto pagine indimenticabili della maratona azzurra. Assolutamente indiscutibile questo fatto, però allora a distanza di tante stagioni si ritorna insieme voi quattro a Milano, stavolta però gli anni pesano per tutti, anche per voi campionissimi si fa la staffetta, è vero? E siamo tutti ormai dell'anniata del 71, la Modica e Stefano, io del 72, quindi siamo 41 anni, quindi credo che gli anni purtroppo si sentono. Loro hanno smesso, io praticamente sono sul ritirarmi dalle competizioni tra quest'anno e l'anno prossimo, però ogni anno dico vabbè, adesso smetto, però mi piace, quindi però la facciamo per un'ottima causa, quindi credo siete che... in pista, in staffetta con il QAM, che è i Medici per l'Africa, una onlus nata nel 50 e che opera in 7 nazioni africane, citiamole: a sud del Sahara, Angola, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Sierra Leone, dove porta avanti decine di progetti di cooperazione, ma soprattutto è un'associazione, una onlus che riunisce medici italiani attivi sul territorio e che portano avanti questi progetti, ma che operano direttamente con le popolazioni sul campo, insomma, no? Sì, esatto, io sono testimone di questa associazione da quasi questo secondo anno, quando abbiamo buttato giù l'idea di fare questa staffetta, di ricordare dai nostri 15 anni da questo grandissimo evento e collegare, visto che alla Maratona di Milano da un po' di tempo a questa parte fanno le staffette, io ho detto ma perché non facciamo una cosa del genere, sfruttiamo l'occasione di ritrovare noi campioni, ex campioni della corsa e e fare una cosa benefica per questa situazione qua. E quindi da lì è partita l'idea, abbiamo ricontattato, perché non che non ci sentiamo mai più, però sicuramente le occasioni sempre rare, anche perché magari qualcuno non si allenava più, ricominciare a sgranchirsi un po' le gambe. Esatto, hanno cambiato la vita. Beh, Stefano è diventato, comunque lavora per la Fidal in questo nuovo ruolo, quindi forse lui è più dentro ancora, quindi era più facile poi ricontattarlo. Giovanni comunque fa ancora attività, Vincenzo invece ha smesso da un po' di anni, quindi fa altre cose, e quindi era un'occasione bella, simpatica, importante per l'associazione. Quindi tra l'altro associazione il QAM che già ti ha fatto sgranchire le gambe in Africa, no? Esatto, perché se non sbaglio recentemente sei stato sul Kilimangiaro per una mezza. Ora ecco, devi sapere che chi ti parla è appassionato di mezza maratona, che fa anche con tempi bradipeschi, no? A confronti di quello che fai te. Io ancora ho le gambe cigolanti dalla mia Stramilano sofferta sotto la pioggia, quindi tu devi anche avere una certa compassione, forte, ecco. Devo dirti che la grande emozione di questa Stramilano è stata quella di poterne correre un tratto con un gruppo di podisti di Barletta. Che avevano una maglia dedicata al grande Pietro Mennea. Ecco, devo dirti che ogni passo, pur modestissimo, del sottoscritto in questa Stramilano sotto la pioggia è stata dedicata a questo grande campione, che è stato anche un grande italiano. Credo che anche Milano e anche la vostra staffetta in qualche modo un pensiero a Pietro lo avrà. Ma sicuramente, anzi, magari colgo anche l'occasione per magari fare ricordarlo veramente un grande campione, oltre che della nazionale italiana, della storia italiana, della storia mondiale. Cioè, non ricordiamoci il suo record del mondo, quanto è durato, cioè ci ha avuto un Michael Johnson per batterlo, quindi sennò chissà quanto tempo durava ancora. Se non lo batteva sono volta, quindi ricordiamocelo, quindi si correrà cioè, anche di cappello, cioè, purtroppo la vita ci porta queste brutte cose e ci fa perdere questa gente anche in maniera prematura, perché poi è troppo età giovane, ricordiamolo. Assolutamente, si correrà anche per Pietro Mennea. Torniamo un attimo. Con Pietro Mennea, hai ragione Danilo. Torniamo un attimo al Kilimangiaro, perché il QAM ti ha fatto già sudare in Africa portando la tua testimonianza. Che mezza maratona è stata? Che atmosfera hai trovato? Bah, sicuramente è molto bella. Poi in mezzo agli africani, io che in Africa ci ero stato sempre per allenarmi, però ero stato in Namibia quando si facevano i raduni in vista dei grandi appuntamenti, sempre già con Stefano, dove io tra l'altro molto spesso dividevo la stanza poi alla fine, quindi si passava dei periodi belli. Quindi correre in Africa è molto molto emozionante, cioè peccato che poi la vita ti farta, cioè finisci queste cose qua, quindi ti rimangono i ricordi, ma l'Africa è veramente un posto per correre fantastico. Io ci tornerei, perché vivevo veramente a 360 gradi per la corsa, però veramente assaporavi il gusto dell'African, e quindi credo che ci tornerei veramente tutti gli anni, tornerei ancora a farlo. Tra l'altro immagino in un contesto, con una cultura in cui la corsa, la maratona in particolare, sono veramente lo sport nazionale, no? E spesso collegato anche al fatto che offrono possibilità di carriera e di vita altrimenti neanche immaginabili. Certo, poi nascono per la corsa, sono abituati a correre, quindi è un modo per evadere dalla povertà, dal loro modo di fare, non si parla di business economico, ma giusto per sistemare la loro vita, i sacrifici che fanno le loro famiglie, perché fondamentalmente essendo famiglie contadine, quindi toglierebbe delle braccia al loro lavoro, come erano noi nei primi anni nel 1900, insomma. Quindi credo che la corsa loro è un ringraziamento anche ai sacrifici che fanno i loro i loro familiari per questo, quindi sia per gli uomini ma anche per le ragazze africane, le ragazze keniane, oppure anche per gli etiopi, che poi dopo l'altra grande terra di grandi campioni, cioè da Gebre tanto a Bekele e a Scendere, insomma, quindi sforna a Bikila, campioni, no? Tanto per ricordarci, tanto per... uno che un paio di maratone di un certo peso sforna campioni a tutto andare, ma gente veramente brava, onesta e comunque simpatica. Si corre in staffetta, ecco, come valuti questa iniziativa? Perché Milano si è aperta alla staffetta da qualche stagione, direi una possibilità che ha ampliato la possibilità dell'opportunità di partecipazione per gli appassionati, ma anche arricchito l'atmosfera intorno a questa maratona, no? Sì, è un modo per ricoinvolgere la gente parla alla corsa, perché forse magari vanno in Italia tante maratone, magari la gente era più dispersiva nelle varie tutte le maratone, così c'è un modo di ritrovarci, un modo bellissimo, perché poi porta più di 10.000 persone a correre a Milano, e quindi un modo per ripartire. Poi speriamo che nella staffetta si torni anche un po' a correre un po' più di gente sulla maratona, quindi, perché già le staffette veramente portano tanta gente, è un successo che è partito, e un bravo a Milano perché sono stati i primi poi, e quindi un complimenti a loro che hanno avuto questa bellissima idea, questa brillante idea, e che poi la stanno pian piano copiando anche le altre manifestazioni. Però un bravo a loro che si impegnano, ed è anche fatica di organizzarla, perché poi corrono in quattro in vari tratti. A bordo campo. Ancora insieme qui a bordo campo, oggi completamente dedicato alla maratona di Milano, tutti per le strade di Milano il 7 aprile per questa grande maratona, e soprattutto per applaudire i partecipanti delle staffette che parteciperanno alla grande festa della maratona, con l'obiettivo anche di raccogliere fondi per tante associazioni benefiche, in particolare qui vicino a me in studio Danilo Goffi, uno dei grandi campioni della maratona azzurra, che prenderà parte alla staffetta dei campioni messa insieme dal QAM proprio per promuovere l'attività di questa onlus in diversi paesi africani. Ma Danilo, ci ha raggiunto al telefono quello che sarà il capitano della vostra staffetta dei campioni, Stefano Baldini, oro olimpico ad Atene 2004 nella maratona e oro in quello straordinario europeo di maratona a Budapest nel 1998, su un podio tutto italiano. Ben trovato Stefano. Beh, le emozioni di quel giorno incredibile a Budapest penso che siano ben difficili da dimenticare, vero Stefano? Sì, ricordo anche tanta pioggia, perché è stato un 22 agosto 1998, era decisamente bagnato ma favorevole alla corsa dei maratoneti. Infatti i giorni precedenti erano stati molto caldi e per noi preoccupanti, perché il caldo è nemico di chi corre le lunghe distanze. La gara era stata però comunque tecnicamente e anche agonisticamente bellissima, e noi ne siamo usciti davvero trionfatori. Vabbè, per me la prima medaglia internazionale sulla distanza, ed è stato insomma il preludio a una carriera piena di soddisfazioni sui 42 chilometri, e poi insomma il sentire due volte per me l'inno nazionale nella stessa giornata, sia per l'oro individuale e poi per loro squadre, insomma bella l'iniziativa di ricordarla 15 anni e di ritrovarci un giorno per correre ancora tutti insieme. Eh beh, stavolta con un significato doppio, perché in staffetta almeno vi dividete un po' anche la fatica, perché qualche annetto è passato, ma soprattutto perché correte per il QAM, per questa onlus che vuole dare un significato particolare alla vostra staffetta. Sì, io corro ancora in realtà, anche se non gareggio più ormai da 3 anni, mi è sempre piaciuto correre, lo faccio per stare in forma, e quindi il poterlo fare per uno scopo nobile e benefico è sempre una soddisfazione, un divertimento in più. Qualcuno di noi è ancora naturalmente in attività e quindi è più in forma, altri un po' meno, io sono tra quelli un po' meno, però diciamo che su una distanza intorno ai 10 km me la cavo ancora piuttosto bene, e al di là del fattore agonistico, alla fine corriamo per divertirci, come è giusto che sia adesso, visto che lo era anche quando facevamo agonismo, quello proprio vero, e almeno per me è sempre stato così. Eh sì, il divertimento è la base di qualsiasi... ogni volta che ci si allacciano le scarpette, se non c'è il divertimento davvero non si riesce a fare un metro. Stefano, tanti scelgono anche Milano come prima maratona, no? Perché il terreno, il percorso è particolarmente piatto, veloce, e quindi una buona maratona per iniziare la propria carriera da maratoneta a qualsiasi livello. Ecco, qualche consiglio per chi sarà all'esordio proprio tra le vie milanesi? Beh, i consigli, quelli più classici, sono quelli di non utilizzare un paio di scarpe nuove il giorno della gara, almeno devono aver fatto 40-50 km le calzature che indosseremo domenica 7 aprile, poi stare molto attenti all'abbigliamento che si indossa, guardando le previsioni del tempo e naturalmente un paio di giorni prima, e la borsa al mattino deve essere già pronta e preparata dal sabato, e poi l'alimentazione degli ultimi 2-3 giorni deve essere non esageratamente abbondante. Carboidrati sì, ma senza esagerare, perché non dobbiamo appesantire il fegato, visto che ci servirà bello scarico e riposato anche lui la domenica, visto che ci aspetta una distanza abbastanza lunga. L'idea di fare la staffetta è ottima, perché si invitano tanti atleti che non hanno mai corso a provare, e poi a sognare magari una maratona di Milano il prossimo anno, per esempio. Eh sì, lo dicevamo anche con Danilo Goffi, no? Questa idea della staffetta è veramente forse la più inclusiva, no? Perché la maratona con i suoi 42 e 195 metri spaventa molti, i 10 km invece tutto sommato sono accessibili anche per il podista della domenica. Assolutamente, dopo naturalmente però aver fatto una buona visita medica di idoneità, che è una prova sotto sforzo con un elettrocardiogramma, il che ci toglierà qualsiasi pensiero dal punto di vista sanitario, e poi ci possiamo buttare anche a fare 10 km anche con un allenamento non esageratamente competitivo. Stefano, ti chiedo ancora, da campione olimpico, immagino che si correrà anche a Milano, anzi ne sono sicuro, nel nome, nel segno, nel ricordo di Pietro Mennea, no? Tu che sei stato oro olimpico ad Atene 2004 nella maratona, beh, Pietro lo fu a Mosca nell'80 nello sprint, distanze mai come le vostre due, lontane, ma emozioni e pensieri credo vicinissimi. Vicinissimi, e poi soprattutto il DNA dell'atleta che è capace di tirare fuori il meglio di se stesso nell'occasione che conta. Questo è al di là del fatto che uno sia un lanciatore, un saltatore, uno che fa velocità o corse prolungate. Mennea è stato davvero un mito dell'atletica, quando l'atletica era tanto importante. Il primo atleta che ha interpretato il modo di fare sport in una maniera professionale, e che ha sperimentato su se stesso nuove tecniche d'allenamento che sono ancora validissime e attualissime oggi, con il suo mitico tecnico Vittori. Gli dobbiamo dire soltanto grazie e correre anche per lui. Un'ultima domanda ti chiedo ancora, Stefano, un messaggio per i tanti che saranno impegnati a fianco a voi nelle staffette. Nelle staffette sicuramente il gioco di squadra la fa da padrone, e ricordarsi che anche nei momenti di difficoltà che ci saranno durante il percorso, perché è inevitabile, non tutti saranno pronti, preparati, o magari avranno interpretato in modo troppo aggressivo i primi chilometri e saranno un po' più in affanno negli ultimi, che si corre anche per i nostri compagni di squadra, e quindi quella deve essere una motivazione in più. E allora stringiamo i denti, stringete i denti, e grazie a Stefano Baldini per essere stato nostro ospite oggi qui a Radio 24 a Bordo Campo. Buona maratona, buona staffetta, Stefano. Grazie, ci vediamo a Milano allora il 7 aprile. E allora davvero tutto pronto per questa eccezionale staffetta che il il 7 aprile sarà per le strade di Milano, lo ricordiamo, Stefano Baldini, Danilo Goffi, Vincenzo Modica e Giovanni Ruggero in staffetta per Medici con l'Africa QAM per portare un messaggio di sport ma anche di solidarietà. Allora, Danilo Goffi, la gamba va bene, sì, sei pronto, sì. Scommettete su un tempo oppure dai, meglio no, farsi una bella passeggiata? Purtroppo i miei compagni dovrò aspettarli, no, scherzo a parte, adesso ho il buon modo di scherzare con Stefano di questa cosa qua, finalmente ogni tanto riesco a... Ti dirò, ti tengo dietro almeno. Hai trovato un modo per battere Stefano Baldini? Visto che ho battuto un paio di volte. Poi quell'anno è stato l'anno in cui sono arrivato sempre secondo, perché quell'anno facevamo pure i societari di cross e arrivai secondo gli europei. Mo ci arrivo davanti io a Stefano. Quindi, ecco, stavolta l'hai fregato, ma è importante che vinca la maratona di Milano. Ma è importante che vinca la maratona di Milano, l'importante che vinca questa staffetta e il QAM. Allora, grazie a Danilo Goffi per essere stato oggi il nostro ospite qui a Bordo Campo. No, grazie a voi e di tutto questo e grazie dell'invito. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulle nostre pagine web. L'appuntamento come ogni domenica è per la prossima settimana alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci. We'll be right back.